Con l'oliva sempre presente fra noi in virtù della propria capacità magnetica, parleremo questa sera di soluzioni politiche, di sacrifici eucaristici, dell'intimità dei grandi e non ci negheremo un confronto fra Cercopitechi, computer e uomo.